get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao, stasera siamo Lucilla, che sono io, e Pina. E è difficile fare una trasmissione in questo momento e con queste notizie che vengono dal mondo. Tanto per incominciare, vorremmo leggervi il nostro comunicato contro la guerra, che abbiamo indirizzato alla Casa delle Donne di Belgrado e a una nostra amica e compagna, Lepa, che già voi conoscete perché abbiamo intervistato durante la terza settimana lesbica proprio sulla situazione di Belgrado e sulla situazione della ex Jugoslavia o dell'attuale Jugoslavia. E il nostro comunicato così recita: il coordinamento lesbiche romane è vicino alle donne serbe e kosovare, vittime di imperialismi apparentemente diversi, ma che parlano lo stesso linguaggio. Stupri di massa, torture, guerre, morte, distruzione e sopraffazione. Ci auguriamo la fine del patriarcato e con John Betts vi salutiamo. Sento sulle mie spalle la responsabilità del mio paese aggressore nella guerra in Vietnam e intendo oppormi come posso con tutte le mie forze a questa violenza come ad ogni altra violenza. Coordinamento Lesbiche Romane, Centro Femminista Separatista, via San Francesco di Sales 1B, Roma. Adesso vorremmo leggervi l'ultima email che a noi è arrivato e pervenuto da parte di Lepa Mladenovic. L'email è arrivato alle donne di Bologna, che sono in più stretto contatto con lei. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere questa donna stupenda, che è una lesbica, una separatista e una pacifista, e che a Belgrado svolge la sua attività. L'email è datato Belgrado 26 marzo 1999, ore 18:25. Da Lepa Mladenovic. Bombardamento, giorni 3. Care amiche, la scorsa notte sono stati bombardati 50 bersagli militari. In tutte le città la sirena annunciava pericolo intorno alle 19 e dopo tutte le luci della città si sono spente. Molta gente si è nascosta nei rifugi dalle 20 alle 4. La radio ripeteva continuamente che l'aggressore può creare danni alla vita umana e ai beni materiali, ma non potrà mai danneggiare lo spirito serbo che vuole la libertà. A Pristina, la scorsa notte, ci sono stati molti bombardamenti e i nostri amici hanno detto che producevano un rumore spaventoso. Il mattino, alcuni negozi alimentari di albanesi sono stati derubati e la città è piena di jeep serbe, carri armati ed altri veicoli. Questa è sicuramente un'immagine spaventosa. Sono tutti chiusi in casa e le linee telefoniche funzionano malissimo. E questa è la situazione a Pristina. Continua Lepa. Oggi a Belgrado molti negozi sono chiusi. Caffè, sigarette e pane non si trovano più. Non c'è carburante. In città ci sono solo soldati. Nelle strade non c'è molta gente e la città è mezza vuota. Scuole e università sono chiuse e ci sono pochissime informazioni su cosa sta accadendo in città e nel paese, e anche questo provoca molta paura. Il centro delle donne di Belgrado è sempre aperto e dà supporto alle donne, soprattutto attraverso il telefono e distribuendo agli altri gruppi di donne i messaggi di solidarietà che provengono dalle donne di tutto il mondo. Grazie, per noi è importante non sentirci sole. visto che le notizie di questi giorni producono maggiore isolamento. E adesso vi diamo l'email di Lepa, o meglio l'email della Casa Internazionale della Donna di Belgrado, della Casa della Donna di Belgrado, e a cui, se volete, chi vuole può spedire messaggi di solidarietà che verranno poi diramati a tutte le donne e a tutti i gruppi. lepa@eu scritto maiuscolo, net scritto minuscolo, punto u scritto minuscolo. Avete ascoltato Ellen McLuane nel suo pezzo I'm a Woman. Anche questa è musica indipendente. Ciao, sono Pina e volevo dirvi che all'ultima edizione di Immaginaria, ormai che si è conclusa il 28 febbraio scorso, abbiamo incontrato Cecilia Nant-Frank, co-regista del bellissimo documentario svedese Veninor Companion, ovvero Compagne racconte dall'armadio. È il primo documentario svedese sull'amore lesbico del 1996, in cui cinque donne settantenni raccontano la loro vita, dall'amore proibito e dal disprezzo fino alla liberazione e accettazione di sé. Ringraziamo Tania per la traduzione e sentiamo insieme Cecilia. Immaginaria, oggi è il 27 e siamo con la regista svedese che è arrivata qui da noi. Le chiediamo di presentarsi e di dirci come è venuta fuori l'idea di questo film. So, and how did you get the idea for this documentary? Actually, I was working, I was going out in schools and talking about homosexuality. Lei stava lavorando andando nelle scuole in cui parlava di omosessualità. For the National Lesbian and Gay Association. Per l'Associazione Nazionale Gay e Lesbica. I realized that there was no history in our speeches or. E quindi mi sono resa conto che nei nostri discorsi mancava la storia del lesbismo. And so I thought that we have to find someone who can talk about this subject before it's too late, before they die, before they disappear. E quindi è nata la voglia di trovare le persone con cui parlare della storia prima anche che muoiano, insomma. Quindi in questo film sono intervistate donne di una certa età. Because usually and normally I think that all documents are being destroyed of homosexuals by their family when they die, and that is a big problem. Perché c'è il problema che quando le lesbiche muoiono, poi le famiglie distruggono le varie documentazioni della loro vita. Yes, because they don't understand the value of it, and maybe they are embarrassed. Perché la famiglia è imbarazzata delle lesbiche che sono all'interno della famiglia e quindi non capiscono il valore che hanno per noi. Uh-huh. E è stato difficile trovare donne lesbiche anziane con cui parlare? Did you find any difficulties to find these women? I understood. No, it was yes, it was difficult. È stato difficile. But then we found there was a group called Golden Ladies. Poi però abbiamo incontrato un gruppo di donne chiamate le Donne d'Oro. And they maybe they were 20 or something. Erano circa 20. And Abba was the one taking care of the group. E Abba era quella che coordinava il gruppo. And she's in the film. And so lei nel film. And she believed in the project. E lei ha creduto in questo progetto. And she was the only one that wanted to participate in the film in the beginning. E Abba era l'unica che all'inizio ha voluto partecipare all'interno del film. So eventually she contacted some women and asked if we could contact them, and then we could. And so it was like we interviewed 30 women like this. Lei ci ha aiutato molto nelle interviste a contattare le altre donne che sono, ne abbiamo contattate all'incirca 30. Mm-hmm. But still nobody wanted to be in the film. È stato molto difficile cercare di coinvolgerle all'interno del film perché non volevano partecipare. E senti, e i finanziamenti per questo film, hai avuto delle difficoltà a trovarli o è stata una cosa abbastanza facile? Yes, I understood. No, it was not. We got some money from the National Lesbian and Gay Association, and then from the Swedish Health Institute. abbiamo avuto dei finanziamenti dall'Associazione Nazionale Gay e Lesbica and from the Swedish Health e dalla dall'educazione sanitaria svedese. And with this money we could do the sound interviews and shoot the film, because the film is shot in 10 days. One day interview each woman and one day in a milieu or a setting. E con questi soldi abbiamo potuto soprattutto finanziare la parte delle voci, e invece le registrazioni sono state fatte in 10 giorni. But yeah, so because the television and the film institute didn't want to support in the beginning. So, but when they saw the material, when they saw the film, or if, even if it wasn't edited, then they gave more money. Perché all'inizio la televisione non ha voluto finanziare il film. But what did you say? In the end, when they saw the film, then they did the television gave you some money. Yes, to edit montage. Poi successivamente, quando hanno visto il film realizzato, allora hanno dato i finanziamenti successivi per il montaggio e la parte finale. Quindi è stato visto in televisione questo film? È stato mandato in televisione? It has been gone on television, this film. Yes, it's screened in Swedish television and we also sold it to the Danish and the Finnish television. Sì, è andato in televisione sia in Svezia che in Danimarca che in Finlandia. Ok. E che reazioni ci sono state? Cioè, hai avuto notizie della reazione del pubblico a un film del genere? What kind of reaction had the public or the media or something? Very positive. Molto positive. Yes, I think because they are so unoffensive. Sì, l'hanno trovato inoffensivo. Senti, invece un'altra domanda che ti volevo fare, perché nel film si vede che poi Abba e la sua compagna, no, si iscrivono nella lista delle convivenze. E fanno una specie di matrimonio, insomma. È una pratica diffusa in Svezia? In the end of the film, the Abba and her and they get married and they registered themselves in a list as a couple. Is it common for lesbian couples to register themselves? To marry? No. Not that common, I think. I think everyone thought that more people would do this, marry or registered partnership or whatever it's called. But I still think that people are not used to the possibility. And also you lose quite a lot of money with the taxes and everything. So it's not that good for a lesbian, always have less money. So I think it's not... No, non è poi così comune, infatti anche all'inizio si pensava che più coppie si sarebbero poi registrate, ma in realtà non ci sono molti vantaggi, anche perché ci sta una grande spesa in tasse economiche per affrontare questo matrimonio. E non so, e tu cosa pensi del matrimonio tra lesbiche? Perché noi come gruppo non siamo favorevoli, siamo contrari alla famiglia come un'istituzione che regimenta, no? Regolamenta l'amore, e poi perché la famiglia è l'istituzione eteropatriarcale che noi rifiutiamo. Tu cosa pensi rispetto a questo? I think that it's important to be able to marry if you want to. It's an important thing in the society that this is recognized as love, that homosexual. Io sono penso che sia importante che sia possibile sposarsi, perché così viene riconosciuta l'amore di questa coppia all'interno. So I think it's more important for the understanding and acceptance of homosexual in an heterosexual society. For this I think it's important. Sì, quindi penso che sia importante per l'impatto per l'accettazione da parte del mondo eterosessuale. And so in that, I think it's radical. I think it's like blowing this institution from the inside. E credo che sia un modo per bruciare le vecchie istituzioni dall'interno. Ok. Grazie, grazie Cecilia, e grazie soprattutto per il bellissimo film. Dal forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista abbiamo ricevuto questo comunicato stampa, che adesso vi leggiamo. Il ricorso alla guerra come strumento per risolvere i problemi dilaga nel mondo e ha ormai creato una assuefazione che ci spaventa. Come se si trattasse di un evento normale, la minaccia di una guerra guerreggiata torna infatti di nuovo nel cuore dell'Europa, sostenuta dall'inganno che soltanto con il ricorso alle armi si possono far cessare le nefande azioni di repressione che il governo di Belgrado conduce contro la popolazione kosovara. Alla barbarizzazione delle relazioni interne alla Jugoslavia, intrappolate nella spirale micidiale dei locali nazionalismi e dei giochi di potere internazionali, si risponde dagli USA, dalla NATO, da gran parte dell'Occidente con la guerra, con la logica militare di chi pretende di svolgere, per designazione divina, il ruolo di guardiano della pace. Lo abbiamo visto all'opera, questo ruolo. Sappiamo quanta sofferenza umana, quanta distruzione di vita e di vite comporti. Il governo italiano è dentro questa logica. Il centro-sinistra condivide l'avventura militare della NATO, ne giustifica e legittima le modalità, è pronto a concedere, anzi, ha già concesso, l'uso delle basi militari presenti nel nostro paese. La guerra contro Belgrado è a due passi da casa nostra, chiama in causa la nostra responsabilità, ci obbliga a fare di tutto per denunciare le scelte di guerra. La complicità del governo italiano, l'ipocrisia di quanti sostengono che la guerra è oggi il male minore. È il male peggiore, sempre. Chiediamo al governo italiano di desistere dalle sue scelte, a quanti hanno a cuore la civiltà delle relazioni umane, di dissociarsi e fare di tutto perché sia ritrovata la strada della politica, di una soluzione negoziata del conflitto interno alla Jugoslavia. Siamo impegnate come donne a seguire le orme della Cassandra di Christa Wolf. Tra uccidere e morire c'è una terza via, vivere, sempre. Chiediamo a tutte le donne che condividono con noi l'orrore della guerra di farsi soggetto attivo contro la guerra. Fortune. Allora, dopo avete ascoltato due pezzi musicali fino adesso, dopo i vari interventi, dopo l'intervista alla regista svedese Cecilia Nant-Falk, avete ascoltato Castelberry Dupré con Songs or War e adesso invece avete ascoltato Nene Cherry con A Woman. A questo punto, vorremmo mandarvi un'altra intervista sempre fatta d'immaginaria, l'ultima immaginaria, quella del 1999, ed è l'intervista, la chiacchierata che ha fatto con noi, Luchi Massa, che è la sceneggiatrice e la regista di un cortometraggio che si intitola Rapido Finale, Compassione, che ha vinto per la serie dei narrativi. È interessante il discorso che fa Luchi, perché già nel suo corto, praticamente introduce un argomento che le interessa, che è quello, lavoro contro l'etaismo e contro alcuni cliché come la bellezza, eccetera, eccetera. Ed è interessata a costruire un documentario, su anche lei, sulle storie di lesbiche anziane o comunque di lesbiche che hanno vissuto in un percorso lungo che si snoda almeno negli ultimi 50 anni e cerca, donne lesbiche che abbiano voglia di fare questo lavoro con lei. Quindi è anche un appello che noi volentieri rivolgiamo a chi ci ascolta, che si voglia mettere in contatto con noi, sia qui a Radio Onda Rossa che al coordinamento, alla redazione del coordinamento ogni lunedì, presso il Centro Femminista Separatista, per dare se ha una disponibilità a lavorare. Intanto ti ringrazio per la presentazione, regista, attrice, una cosa, niente male, insomma. Diciamo che stare per 5 minuti nel ruolo di regista piuttosto che organizzatrice non è male. Allora, il corto, cortissimo perché 5 minuti, si chiama Rapido Finale Compassione. È rapido non tanto per i 5 minuti in effetti, ma perché il finale, diciamo, non è proprio quello che ci si aspetta, non è quello che ci si aspetta ed è assolutamente rapido. Dunque, come mi è venuta l'idea? Un po' lunga come cosa. Diciamo che, allora, intanto, è un po' di anni che sto facendo una ricerca sulle lesbiche anziane, cioè lesbiche del dopoguerra per intenderci, in Italia, perché all'estero ci sono già vari documentari su questo tema, come Women Like Us, che abbiamo già dato, Inghilterra, eccetera. In Italia non c'è, cioè non sappiamo cosa facevano le lesbiche dopo guerra, ma anche un po' più tardi, insomma, come si vivevano il lesbismo, gli incontri, locali, qualsiasi cosa, insomma. E a me interessava fare questa ricerca, soprattutto per le nuove generazioni, cioè sapere come si è arrivato a questo punto qua, adesso. Il fatto di potersi permettere di vedersi e riconoscersi è un po' diverso rispetto probabilmente a come si vedevano e si riconoscevano tanti anni fa. Per questo lavoro ho messo degli annunci, ho parlato con varie donne, non sono ancora riuscita ad avere abbastanza materiale da fare un documentario, però mi è venuta l'idea di fare un film, una fiction, cioè a questo punto me la sono creata io, insomma, la storia. E la storia è tutto un gioco sui luoghi comuni, cioè sulle che non siamo immuni noi, ecco, non siamo immuni le lesbiche, non sono immuni i gay, non sono immuni nessuno. Cioè sulle accostanze che si fanno, giovinezza con giovinezza, bellezza con bellezza, tutti i vari stereotipi, per cui ti possono passare davanti agli occhi anche delle immagini, delle cose che tu non vedrai, che noi non vediamo, perché ormai, cioè, le abbiamo cancellate, non rientrano nella nostra ottica. Per cui la storia cos'è? La storia di questa ragazza giovane, intraprendente, che si avvicina a questa casa con una cassetta degli attrezzi, per cui è una che lavora, eccetera, con un look, diciamo, abbastanza inconfondibile, quindi gli anfibi, il pantalone largo con le tasche. Si avvicina in questa casa, entra in questa casa, in questa classica famiglia italiana, per cui papà, mamma, nonna e le due figlie. Non ho fatto il figlio e la figlia perché era eccessivo, mi sono limitata alle due figlie carine, Giovani. giovani, e diciamo un look che forse qualcuno penserà sono anche lesbiche, in quella casa sono tutte, ecco. Insomma, l'importante per me era creare un equivoco dietro l'altro, un'illusione dietro l'altra. per cui questa ragazza che va in questa casa ad aggiustare una tapparella, quindi ho voluto molto giocare sulle cose corte, sulle cose divertenti. Va in questa casa ad aggiustare questa tapparella, incontra questa ragazzina, poi incontra la mamma, incontra l'altra ragazzina, incontra anche la nonna, e tutti questi incontri possono portare a qualcosa. E alla fine di questa, diciamo, di questa piccola storia, quando tutte sono uscite di casa e quando lei si gira per dire alla propria la ragazza, la donna, finalmente sole, questa donna non è nessuna di quelle che ci si aspetta. Vuoi dire chi è? Non lo dire, lasciamo la suspense per chi lo potrà vedere. No, diciamo che il preambolo che ho fatto prima sulla mia ricerca, la dice lunga. Degli indizi che ho dati. Esatto. E l'altra cosa invece, come lo hai finanziato? Allora, questa idea, diciamo, che io ho messo su carta, l'ho presentata al Festival del Cinema di Parigi, quando le lesbiane sul fronte di cinema dell'associazione Cinefable, che questo festival, non vorrei sbagliare, ormai alla 10ª edizione, lesbico, questo festival di cinema lesbico, ed ha vinto il premio di sceneggiatura. Ah, bene, quindi hai già vinto un premio come sceneggiatrice. Esatto. I fondi, ahimè, non sono arrivati, perché poi hanno deciso altrimenti, nel senso che preferivano darlo dopo la realizzazione, per cui questo sinceramente mi ha creato un po' di problemi. Quindi autofinanziato. La mia fortuna è stata che ho trovato delle splendide attrici che si sono prestate molto gentilmente e molto appassionatamente gratis. Chiaramente ho dovuto pagare operatrici, comunque montaggio, questo si fa. Però mi sono venuta incontro, diciamo che non mi hanno fatto i prezzi soliti. Autofinanziato, come sempre, quindi autoprodotto, per cui ho cercato di usare il supporto migliore rispetto a quello che mi potevo permettere. Ho usato il digitale, che secondo me sarà poi il mezzo del futuro, nel senso che ormai sta prendendo piede. L'ho riversato in Betacam. La mia idea era il 16 mm, perché è una fiction che si presta a questo. Però vabbè, troppo costoso. Prossimo anno. Va bene, allora il prossimo anno vedremo un'altra cosa scritta da te, quindi con una tua idea, diretta da te e a questo punto anche recitata da te, naturalmente, ancora. Questo vabbè, vorrei risparmiarlo. Per dire il fare, ci sono impegnata, però cioè, quando poi stai lì che devi muoverti davanti alla telecamera, cioè, ci provi, però più di tanto non so. No, io dico che sono state molto brave le altre, quelle che hanno collaborato con me, le ringrazio moltissimo. E grazie a te Luchi, e per ora basta, grazie per averci parlato di questa tua cosa. Thank you. Gli appuntamenti. Alla libreria Odradek in via dei Banchi Vecchi 57 a Roma, sabato 10 aprile alle ore 17.30, le donne dicono no al bavaglio del 18 aprile. Su questi temi incontro dibattito con Carmela Celestino, Elettra Deiana, Antonia Sani e Patrizia Sentinelli, coordina Rosa Anna Palomba per il Partito della Rifondazione Comunista. Invece vi invitiamo tutte per sabato 17 aprile del 1999 alle ore 19 al Centro Femminista Separatista, il collegamento tra le lesbiche italiane e il coordinamento lesbiche romane inaugurano con un brindisi il nuovo spazio in via San Francesco di Sales 1B, presentando la loro attività, archivi lesbici, la bollettina del CLI, il progetto radio per la controinformazione è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Saranno presenti anche le donne del martedì femminista autogestito di Radio Onda Rossa e... per chi vorrà si potrà mangiare al nostro buffet e ballare con la nostra DJ, indovinate chi è? Clash Clash. Per informazioni telefono fax 06 68 64201 il lunedì dalle 20 alle 22 e il martedì dalle 19 alle 21. In questa sede potete anche scriverci, mandarci fax, telefonarci, insomma noi vi aspettiamo non solo alla festa ma anche oltre la festa. Sometimes I get a good feeling, yeah.